Economia in pagina. Buonasera, questa sera parliamo del tempo. Il tempo è un fattore fondamentale nella vita di ciascuno di noi, è un fattore fondamentale anche nell'economia e nella società, e parliamo del tempo con un filosofo, con Giuseppe Polistena. Buonasera Polistena. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Giuseppe Polistena si è laureato in filosofia a Messina, ha insegnato per molti anni a Milano, è stato direttore di una rivista filosofico-letteraria e ha scritto questo libro, Diacronia, appunti per una ontologia del tempo. Ecco, perché un libro sul tempo? Diceva Sant'Agostino che il tempo sappiamo tutti che cos'è, anche se poi non sappiamo spiegarlo. Sì, io invece non so neppure che cosa sia, quindi rispetto ad Agostino siamo indietro con le soluzioni. Però ecco, quello che invece un'analisi sul tempo ci può consentire di capire è la complessità anche in direzione delle scienze e anche delle scienze sociali, come l'economia per esempio. Ecco, ma diacronia cosa vuol dire? Diacronia è l'azione del tempo, cioè il riconoscimento che il tempo non è nulla, non è una cosa inesistente, ma ha una sua azione. Una volta che si è colto questo, allora tutte le scienze possono essere filtrate da questa soluzione proprio del tempo attivo, e allora tutto cambia. Ecco, perché spesso si parla di sincronia, lei ne parla appunto proprio nelle prime pagine del libro, cioè del fatto di andare a contatto col tempo, di essere sincronizzati, di tenere conto del tempo e di fare le cose in tempo opportuno, just in time si dice in economia e in logiche aziendali. La diacronia è l'opposto di sincronia? Sì, il tempo sincronico è il tempo che gli esseri umani hanno adottato ed è un tempo ineffettuale, un tempo che non c'è. E il tempo diacronico, cioè quello veramente attivo, che invece va scoperto, riscoperto. E questo ci consentirà, io credo, di fare delle scoperte sensazionali nei vari campi. E quello che mi ha colpito anche facendo la ricerca è che a poco le dimensioni pratiche, quindi dalla politica all'economia, venivano, come dire, illuminate da questa concezione del tempo che non è più ineffettuale, come quella dei nostri secondi che sembrano tutti uguali quando passano, no? Ecco, questo è il messaggio della diacronia, un tempo effettuale che agisce. Un tempo quindi di cui bisogna tener conto, e quindi dalla parte filosofica si arriva alla parte concreta, cioè anche una logica del tempo diversa può aiutare ad affrontare i problemi economici e sociali contemporanei che sono talmente complessi che bisogna avere un po' più di tempo forse per affrontarli. Ecco, la complessità del mondo sociale e in particolare dell'economia che mette tutti in soggezione, però ecco, l'acquisizione di una diacronia ci consente di capire perché la diacronia fa strage di tutti gli elementi contenutistici, quindi quello che io ho potuto constatare che per esempio tutte le dottrine economiche basate sui contenuti, sulla materia, venivano eliminate da questa concezione formale. E quindi mentre per esempio il Marx economista veniva sempre più ridimensionato da una prospettiva di diacronica, il Keynes invece veniva sempre più valorizzato perché erano economisti che avevano fatto un tentativo di riconquistare il tempo in una versione e in una visione attiva. Riconquistiamo tutti il tempo, questo è un po' forse il messaggio in senso attivo, in senso anche filosofico. Chi volesse approfondire, io ringrazio Giuseppe Polistena di essere stato con noi questa sera, chi volesse approfondire questi temi certamente complessi può affrontare il libro Diacronia, appunti per un'ontologia del tempo, edito da Mimesis, sono 420 pagine per 32 euro. Grazie professor Polistena. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Ed ora parliamo di disuguaglianze, lo facciamo sulla base del libro di Giuseppe Arbia, Disuguaglianza, redistribuzione e crescita. Buonasera Giuseppe Arbia. Buonasera. Buonasera. Giuseppe Arbia è professore ordinario di statistica economica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e per appunto Vita e Pensiero, che è editrice dell'università, ha scritto questo libro che è dedicato appunto alle disuguaglianze. Disuguaglianze di cui si parla spesso, vengono considerate come un elemento, diciamo, di fondo, non solo e non tanto, non solo, ma anche se è importante dal profilo etico e della giustizia sociale, ma anche dal profilo dello sviluppo economico. Viene definita una relazione diretta dal fatto che le disuguaglianze siano cresciute al fatto che l'economia stenta a crescere, anzi è ancora in crisi. Ecco, è questa la tesi del libro. C'è una relazione, professor Arbia, tra la disuguaglianza e la crisi economica? Sì, esattamente questo. Io nel mio saggio prendo le mosse dalla teoria di Norberto Bobbio, che fa distinguere tra una posizione di destra e di sinistra dalla posizione rispetto alla diseguaglianza, rifacendosi alle idee di Rousseau nel caso della sinistra e di Nietzsche nel caso della destra. Però quello che sostengo io è che ai nostri giorni questa distinzione non ha più nessun senso, perché ridurre le diseguaglianze è un obiettivo che può essere perseguito di per sé per il conseguimento di una maggiore giustizia, seguendo un pensiero cosiddetto di sinistra, ma anche seguendo un pensiero di destra per facilitare la crescita economica. Ecco, però come fare per ridurre le disuguaglianze? Quali sono gli strumenti di fronte alla realtà economica che si possono attuare? C'è solo uno strumento fiscale, uno strumento di redistribuzione da parte dello Stato o ci sono altri interventi possibili? Ma guardi, io nel mio saggio mi sono concentrato soprattutto sugli effetti del primo, cioè su una riforma fiscale. E in particolare rispetto al nostro paese quello che osservavo è che gli strumenti di manovra sono essenzialmente una modifica delle aliquote, dell'imposizione sul reddito e soprattutto una tassazione sulla successione. Quindi questo potrebbe essere un elemento di svolta, il fatto di cambiare la politica fiscale, però ci vuole anche poi un intervento diretto dello Stato per ridurre e per avviare quella politica delle opportunità di cui si parla anche nel libro. Esatto, beh, quello di cui parlo io è una riduzione delle aliquote sui redditi bassi, però compensata da una crescita delle aliquote invece sui redditi più elevati. Di fatto da noi in Italia la progressività delle imposte, che è stabilita dalla Costituzione, si arresta molto presto a livelli di reddito non elevatissimi, per cui con un incremento delle aliquote a partire dall'ultimo scaglione si potrebbe compensare la riduzione invece sugli scaglioni più bassi. Ma questo non potrebbe comportare una riduzione, diciamo così, della propensione a rischiare, della voglia di guadagnare, dell'iniziativa privata, un penalizzare un po' la ricchezza, in fondo, la ricchezza conquistata attraverso il lavoro, non la ricchezza conquistata attraverso la rendita. Sì, però qui appunto si parla di imposizione sul reddito, non sul capitale, quindi non andrebbe a penalizzare questo. Okay. E comunque i vantaggi che ne conseguono sarebbero superiori agli svantaggi, anche per i detentori di reddito più elevato. Però ecco, il problema fiscale in Italia è sempre visto come la necessità di ridurre il peso del fisco. Il peso del fisco, sì, è un elemento che frena comunque l'economia. Sì, però di ridurlo sui redditi medio-bassi, e questo può essere effettuato solamente appunto o attraverso una tassazione sulla successione più elevata o invece su un incremento delle imposte per i redditi più elevati. Ecco, ma in confronto agli altri paesi l'Italia com'è messa, professor Arbia? Ma dunque, rispetto alla tassazione sulla successione, noi siamo un paradiso fiscale. Ecco, un paradiso fiscale per quanto riguarda le successioni, non per quanto riguarda l'imposizione sui redditi delle persone, ecco. e soprattutto sui redditi delle imprese, probabilmente. Certo, questo è un po' il nostro paradosso. Ecco, ci vorrebbe una ridistribuzione interna tra le varie fonti di imposizione. Quindi una riduzione dell'imposizione sul reddito e una crescita della tassa di successione. Sulla tassa di successione c'è un discorso molto, molto ampio che potrebbe essere fatto, no? Perché molti la percepiscono come qualcosa di ingiusto. In altri paesi, come negli Stati Uniti, è considerato qualcosa che garantisce la meritocrazia, nel senso che se il reddito è legato al merito dell'individuo, questo non può essere trasferito tout court da una generazione all'altra. Certo, però negli Stati Uniti è molto agevolata per esempio la filantropia, il fatto che i ricchi possano con agevolazioni anche fiscali destinare parte del proprio patrimonio a fondazioni, ad attività sociali, ad attività appunto comunque a favore delle classi meno abbienti. Certo, e questo non farebbe male neanche a noi. Ecco, ma in questa prospettiva qual è il modello che lei potrebbe definire per una realtà italiana in cui si parla molto ma si realizza un po' poco? Qual è il paese a cui potremmo ispirarci? Ma io appunto guardavo nel mio saggio, ho confrontato anche situazioni con altri paesi e guardavo molto agli Stati Uniti da questo punto di vista, almeno gli Stati Uniti come sono oggi. Ecco, Stati Uniti in cui viene privilegiato in fondo l'uguaglianza delle opportunità, opportunità anche a livello di istruzione, opportunità a livello di partecipazione alla vita pubblica. In Italia anche su questo fronte potremmo fare molto. Esatto, questo lei ha toccato un altro aspetto che ho trattato all'interno del mio saggio, cioè la distinzione tra diseguaglianze naturali e diseguaglianze delle opportunità, e ci rifacciamo qui ancora appunto alla distinzione che fece Jean-Jacques Rousseau, perché le diseguaglianze naturali sono appunto qualcosa che non va assolutamente ostacolato, anzi, diseguaglianze naturali nelle capacità sono ciò che sono un motore della crescita economica, e la diseguaglianza delle opportunità che va a frenare invece la crescita economica. E infatti è su questo punto che possiamo forse concludere guardando un po' in avanti. Lei parla nel libro che siamo di fronte a problemi di sopravvivenza del sistema, una battaglia certamente ardua in cui però bisogna intervenire. Ecco, la situazione politica è certamente complessa, non vogliamo parlare della situazione politica attuale, però c'è una situazione di fondo un po', possiamo dire, culturale e sociale che sta spingendo verso politiche attive, verso la riduzione delle disuguaglianze? Ma a me non pare che questo stia accadendo, ma soprattutto quello che osservo io appunto nel mio saggio è che non si sta investendo in istruzione, e investire in istruzione è proprio lo strumento attraverso il quale si riduce la diseguaglianza delle opportunità e si favorisce la crescita economica, ma si favorisce sia in via mediata attraverso la riduzione della diseguaglianza delle opportunità, ma anche in via diretta, perché investire in istruzione è una tesi che è portata avanti molto spesso dal governatore della Banca Centrale Visco, questo è un punto che lui ha molto a cuore, perché se non investiamo in istruzione appunto stiamo disinvestendo nel nostro paese, nel futuro del nostro paese, e investire in istruzione è la maniera migliore di ridurre le diseguaglianze, sia in via diretta perché favorisce una riduzione della diseguaglianza delle opportunità, sia in via indiretta. Certo, un insieme di politiche contro la disuguaglianza sarebbe molto utile, speriamo che possano avvenire. Grazie professore Giuseppe Arbia di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Diseguaglianza, redistribuzione e crescita, edito da Vita e Pensiero, 116 pagine per 10 euro. Nella prima parte del programma avevamo parlato del libro di Giuseppe Polistena, Diacronia, punti per una ontologia del tempo, edito da Mimesis, 420 pagine per 32 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapelli in regia, Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.